Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar Giannino. Caro Alessandro Milan, caro ascoltatore, buon inizio di settimana, buon Sant'Ambrogio. Questo santo lo sapevo anch'io. Sì, effettivamente, qui a Milano qua è un po' lo difficile. Sapevo anch'io, Sant'Ambrogio. Ma sai qual è il senso, secondo me? Cioè? Tu sai che quando lo hanno fatto, praticamente di corsa catecumeno un arcivescovo, insomma, si è trovato al vertice ecclesiale, ma lui era un prefetto, penso, però era il prefetto di Milano. Anche all'epoca, i tronca, capito? Anche all'epoca, per farle Expo, cioè il problema non era l'Expo, all'epoca era far smettere di ammazzarsi gli ariani e i cristiani, hanno chiamato il prefetto di Milano. Il prefetto Tronca. Il prefetto Tronca del cristianesimo. Il prefetto Ambrogio. D'altronde, che devi fare? Questi prefetti che sistemano tutto. Ecco perché poi alla fine gli fanno fare il giubileo, i prefetti, perché c'è una lunga tradizione. Esatto, siamo anche alla vigilia del giubileo, la sicurezza a Roma, ma caro, gli alberghi vuoti, questo è vero, se è la caccia al pellegrino, nel senso che in maniera positiva, cioè, per portarli, aspetta, non equivochiamo, no, adesso, no, se no, no già ci dicono che siamo anticristiani, qui no, non è vero, assolutamente, la caccia al pellegrino, nel senso che ovviamente... noi vorremmo semplicemente che Stato e Chiesa fossero separati, tutto lì, niente di che. Hai visto il vescovo di Palermo che si è insediato citando la Costituzione? Ti è piaciuto? Ha citato la Costituzione, è vero. Ha citato la Costituzione, tutti hanno stati. Io penso invece che sia l'ennesima prova, cioè Stato e Chiesa in Italia non riescono a stare separati, o uno cita l'altro, o i politici fanno le leggi invocando il Vangelo, un po' di separazione, tutto qui. Oscar chiederebbe solo questo, niente di ciò che non c'è già in Francia. Le sue tasse, per esempio, visto che su questo sono proprio, però niente, adesso la Costituzione. Vabbè. Allora, caro Oscar, invece che cosa chiedono alcune persone che sono andate in piazza ieri davanti a Piazza Montecitorio, cioè tutti coloro che dicono ci hanno fregato dei soldi con il fallimento delle quattro banche, il fallimento, poi il salvataggio delle quattro banche, dipende dai punti di vista, queste persone dicono quelle che hanno firmato le obbligazioni subordinate, cioè quelle più ad alto rischio, che quelle però danno anche alto rendimento. Quindi ora dicono ci avete fregato i soldi. Sì. Vabbè, sono andato in piazza. Questa così. È una rapina legalizzata. Questa è una rapina legalizzata. C'era anche Banca Isis. La gente non dorme più. C'è gente il cartello. Sì, il cartello. Guarda male il marito. C'è l'amico, mio migliore amico mi dice sei un bischero. Non dire di pelle. Vabbè, voci di protesta. Comunque, il fatto è che i parlamentari del PD del Centro Italia, visto che in questo intervento prima del bene europeo è stato fatto, guarda caso, per quattro banche del Centro Italia, dal PD del governo dicono: oh, governo, o qui ci dai soldi e noi li restituiamo agli azionisti subordinati che ci hanno rimesso i soldi, oppure qui la gente in piazza ci insegue. Sì, sì, di cui nasce arrabbia. Questo controverso provvedimento. No, ma infatti, allora, il governo che cosa vorrà fare? Pare che l'esposizione sia di 350 milioni più o meno. Per i subordinati. Di non dimentichiamo che naturalmente che poi gli azionisti, anche lì un mucchio di gente a cui i regolatori, i media, i politici, i governi dicevano: ma voi non rischiate niente, l'Italia è tutta sana, le banche sono strepitose, non abbiamo bisogno di salvarle. C'è tanta gente che ha responsabilità per aver tenuto gli italiani a prendere i titoli, azioni e obbligazioni di queste banche. E cosa vuol fare il governo? Pare che voglia mettere 100-120 milioni, più o meno un terzo, insomma, di questi soldi potrebbero essere recuperati con decreto messi in stabilità. Un terzo. E però, e dopo aver terzi, detto per una settimana il fatto che ci rimetteva lo Stato, cioè il contribuente, e adesso hanno capito che l'Unione Europea giustamente li bloccherebbe, adesso hanno detto alle banche ce li dovete mettere voi e vediamo se le banche, dopo essersi già collati 4 anni di fondo di risoluzione per intervenire sulle altre banche, come aspettate, li abbiamo già esauriti per queste quattro banche. Vengono dalle banche, adesso vediamo se le banche tirano fuori i soldi. La questione però qui è capire, intanto diamo ovviamente il numero se volete intervenire su questo come su altri argomenti, 800 24 00 24, cioè chi ha firmato questi, questi contratti con le banche. Molto spesso si dice: ah, ma non sono stato informato bene, ah, ma mia nonna è stata truffata, aveva 80 anni, è arrivato lo... Però ragazzi, cioè siamo ancora nel 2015 a farsi firmare i prospetti del primo, sportellista di qualsiasi banca, cioè, Allora, formalmente tu hai ragione, sostanzialmente però noi siamo un paese anomalo. Il motivo per cui concentrammo in Italia la maggior percentuale di risparmiatori ordinari che erano fregati quando l'Argentina esplose è perché eravamo l'unico paese avanzato in cui i regolatori, cioè la Banca d'Italia, stavano con gli occhi chiusi di fronte al fatto che quel tipo di titoli ad alto rischio non dovrebbero essere finiti in tasca dei risparmiatori. Quindi questo è un problema di regole generali. E lo stesso vale per le obbligazioni subordinate però delle Oscar, banche. Però, siccome noi, purtroppo, piacciono, abbiamo a che fare con queste regole generali. Bisogna che cambiarle, cacciare i regolatori, ci far pagare la Banca d'Italia, cioè parte del rimborso invece delle banche che sono società private che stanno alle regole del regolatore. Però allora, quindi tu sostieni che il rimborso va fatto, no, cioè l'idea dell'ignoranza che non è ammessa quando uno mette una firma. No, io sostengo che c'è un criterio generale, non la cattiva Europa. E il criterio generale, la politica e Banca d'Italia hanno colpa fino a una settimana prima di non aver detto alla gente: signori, se rimanete lì ve la prendete purtroppo in saccoccia. Comunque oggi Luca Telese intervista sul Libero Deborah Serracchiani, anche lei dice ho perso 18.000 euro, ma non con queste banche, con la Banca Popolare di Vicenza. Vabbè, perché il mio fidanzato Riccardo ha chiesto un mutuo e siamo diventati obbligazionisti. Ma perché? Perché ci hanno detto che così le stesso condizioni meccanismo. Erano ma migliori. Ma siccome io ci ho direttamente sperimentato facendo giornalista anni fa la Popolare di Vicenza, posso dire che i grandi giornali Sole 24 Ore per primo con le banche sta troppo in ginocchio? E che i giornali hanno raccontato per anni a tutti quelli che avevano titoli delle banche che non temevano niente, sapendo che era falso. Diciamolo che anche i giornalisti dovrebbero per quota parte rimborsare. Vengono, hanno una quota di responsabilità. Vengono a chiederci soldi, io non ne ho, ve lo dico subito. Fate pure, chiedete. Secondo me è giusto dire alla gente che non è che i media stavano sulla luna, eh. I media erano a propria volta largamente conniventi, perché le banche sono grandi inserzionisti sui giornali, perché ovviamente dicono: ma sono rompete le scatole, eccetera, prendetevela coi tedeschi, come sempre è facile fare. Comunque ci sono ovviamente adesso questioni pratiche da risolvere, cioè cosa fare di fronte anche politicamente a questa chiamiamolo non in senso specifico, massa umana di persone che fanno delle rivendicazioni. Ieri Renzi, intervistato al Corriere della Sera, ha detto: dovevamo salvare le banche perché altrimenti perdita di posti di lavoro, perdita di... è stato un po' schiscio, si direbbe a Milano oggi, me la passo, visto che è Sant'Ambrose, sulla questione di che fare. Sì, qualcosa faremo, ci sono le regole europee, insomma. Perché adottare il principio che se l'Italia diventa il fatto che noi eravamo in ritardo nel recepire la direttiva, poi applichiamo la direttiva, ma l'applichiamo con un'eccezione perché abbiamo fatto tutto di fretta per in realtà limitare l'intervento anche dei depositanti, e poi ristoriamo chi ci deve rimettere, capisci che l'Europa dice: ma siete paesi puccinelli. Però Oscar, una cosa l'ha detta, mi ha colpito, ha detto: però, ha detto Renzi, sia ben chiaro che le persone che ora sono in piazza hanno firmato dei contratti regolari. Questa frase è significativa, cioè, come dire, non è che sono stati presi per il bavero. Se il governo le dà i soldi del contribuente dicendo non è così, l'Europa interviene in 5 secondi con gli elicotteri. Allora, il tema delle banche comunque c'è, magari nei prossimi giorni anche lo svilupperemo. Che cosa ti ha colpito, Oscar? Vabbè, questa cosa dell'ISIS ancora tutti i giorni, perché vuoi parlare della Francia? Io non lo so quanto i nostri ascoltatori siano, però non è siano, così secondario. Siano colpiti, ma insomma in Francia al 30% votano Marine Le Pen e il Front National. Francia, per esempio, fossimo in Italia la lettura sarebbe tutta diversa da Francia. La Francia, voglio dire, alla fine hanno preso il 28 e rotti di fronte al 26 e rotti di Sarkozy. E il 23 dei socialisti. In Italia i titoli dei giornali sarebbero: sì, però tre grandi forze. Invece Francia è: Napolitano stravinto, che ha preso 1.7 più di Sarkozy. Però anche lì la lettura, per esempio Repubblica ovviamente dice, e anche il Fatto Quotidiano, Front National capitalizza la paura dell'ISIS, gli attentati eccetera. Guido Martinetti invece sulla stampa il fatto dice il titolo più secco, La Pen ringrazia il califfo. Esatto, invece Guido Martinetti sulla stampa dice basta questa impostazione, cioè è un voto che in realtà va sì sicuramente populista, di protesta, e però intercetta tutta quella base del paese che non si sente più rappresentata dalla politica classica e che magari ha votato comunista per anni, ha nel votato, nord ha votato fortissimo il voto di sinistra, e adesso votano colei che rappresenta secondo loro i bisogni della gente comune, ecco. Sono molto d'accordo con questa lettura, questa divisione che hai evocato. C'è anche Alessandro Campi sul Messaggero, mi è piaciuto molto. Cioè questa idea invece si vota di protesta perché si vota Front National, e invece non sarebbe lo stesso in altro anche modo. Perché la zia, che è meglio della nipote, perché la nipote è diventata un'intransigente cattolica anti-gay, anti-tutto, cioè che è Marion Marchand, che è giovane, quindi è bella, diventata iper estremista, so che è bella, però la zia è più laica, ha molto moderato i toni dell'uscita dall'euro rispetto a Salvini, e come no. Quindi insomma la zia ha lavorato molto sull'identità e sulla storia del vecchio fronte, il padre, no? invece ormai ha di quelli dell'OAS con la benda nera sull'occhio, non è più quella roba lì. E il padre invece ha fatto le battute sugli ebrei, lei l'ha cacciato dal partito, quindi insomma, lei ha lavorato molto. Che fine ingloriosa per Le Pen, quello grande. Gente che ha la testa in una storia che non vuole cambiare, c'è poco da fare. Senti qua, caro Oscar, la gente chiama sulle banche perché vuol capire. Potresti dare il commento io finale? La zia Le Pen, la zia, ecco, Marine ha cambiato la destra francese molto più di quanto i leader della destra della Seconda Repubblica hanno cambiato la destra italiana. Punto. No, ma uno ci scrive un messaggio: perché banca IFIS? No, hanno scritto banca ISIS. Tra sui coloro cartelli che protestavano c'era un cartello. Hanno detto la banca è come l'ISIS. Ci assassinate come l'ISIS. Ecco, questo era il suo titolo. Un po' eccessivo, ma diciamo. Un po' eccessivo, sì. Allora, Stefano da Livorno. Ci sono due Stefani. Iniziamo da Livorno. Livorno, Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie della possibilità. Dunque, volevo dire una cosa molto semplice. Questi signori che hanno perso i soldi con l'Etruria e compagnia cantante, sì, è gente che ha messo i soldi lì, perché quando gli avevano proposto magari di metterli sul conto di deposito, quell'1,50, l'1,40 che davano era pochino, no? Certo. Allora hanno proposto poi qualcos'altro, e loro a quel qualcos'altro ci sono andati ben volentieri in conto a quel qualcos'altro. Sono obbligazioni ad alto rendimento. Aspetta un attimo, perché gli rendeva molto di più, no? Naturalmente cosa succede? Poi ci sono i discheri come me, che invece vanno a fare i giri per le banche e li mettono su un conto deposito perché il rischio non lo vogliono, e si accontentano di 1,50. E quando parli con questa gente fa la figura del coglioncino, dice: ma come, te ti accontenti di 1,50? Io con la mia banca, provi a spiegargli, guarda che ti sei assunto dei rischi, perché le obbligazioni sono rischi. Quindi lei, scusi Stefano, dice ora nel momento in cui perdono i soldi dopo aver fatto le obbligazioni ad alto rendimento ma ad alto rischio, vanno a piangere, quindi lei direbbe ristorarli? No. Ristorarli no. No, non gli dare una lira, sono problemi suoi, se no li mettevano su un conto di deposito e le cose erano molto più tranquille. Poi guardi, una cosa che non c'entra niente e concludo. Il PD, visto che è tanto sicuro, dice Renzi, no, io mi sento sicuro, non ci sono problemi, perché non si va finalmente a votare? Perché non ci si va? Andiamoci, confrontiamoci, siamo un paese democratico, confrontiamoci. Il voto c'è stato due anni fa, poi la legislatura c'è stato il voto Bersani, no, poi Enricoletta, ma sta di fatto però che la scelta di intervenire tutte le commissariate di Banca Italia e questa di centrale deriva dal fatto proprio che lì sono voti e poteri del PD. Come no, tra l'altro i giornali ieri sul Corriere della Sera non è stato da chiesto un certo, perché non si poteva chiedere a Renzi eccetera, ma il papà della Boschi era il vicepresidente della Banca Etruria, ma voglio dire, notizia che è scomparso. Sì, non c'è più traccia di questa cosa su tutti i giornali italiani. È una notizia che insomma di Maria Teresa Melli, non ho visto chiedere. Sanno tutti. Ho capito, è vero che le colpe dei padri non ricadono sui figli se ci sono colpe, però resta un fatto, no? È un fatto. Stefano, l'altro Stefano da Como. Buongiorno Stefano. Buongiorno, eccomi qua. Purtroppo anch'io mi chiamo Stefano e sono sulla falsa riga dello stesso ascoltatore Stefano di prima, nel senso non è che ce l'abbiamo con questi risparmiatori che comunque sembra che hanno perso i risparmi, però io volevo solo fare una piccola considerazione. È vero che le cose non sono, probabilmente diranno, no, non è la stessa cosa, però io purtroppo sono un risparmiatore delle obbligazioni argentine. Anche nel suo caso il regolatore bancario non ha visto che le banche vi riempivano di obbligazioni che non andavano date ai risparmiatori di te. È così. E quindi io, ripeto, non è che sono contro queste persone che sembrerebbe che hanno perso i risparmi, però anche io 12 anni fa, ripeto 12 anni fa, sono incapaci. E oggi cosa dice? Cioè rivendicava i soldi? Che agli argentini non c'è stata la mobilitazione in centro Italia perché votano PD e perché i PD hanno detto che non rischiavano in banca e adesso li vogliono ristorare. A noi non ci ristorano, e questo è il problema. Cioè lo Stato italiano poteva farsi garante a nostro nome e coprire le nostre perdite, poi si rivaleva sull'Argentina che che stiamo aspettando e a noi nessuno ci ha detto niente. Allora dovevamo fare anche noi una mobilitazione per prendere dei soldi. Ripeto, io non ce l'ho con queste persone, no, però, ma certo. Vabbè, una mobilitazione la possono fare tutti, quello Stefano. Ma mi sa che, come vedi, però viene ascoltata non viene ascoltata. Ragazzi, in ascolto, ho alzato apposta la voce per teatraggiare, però un po' di ci credo a quello che ho detto. No, è chiaro. Grazie Stefano per questo suo confronto, che non è poi così peregrino. Insomma, dice, io ho avuto una situazione simile, anche se diversa, ma insomma, noi siamo rimasti un po' gabbati. Ha impatto maggiore, in quel caso era un punto di PIL di risparmio degli italiani che era sparito. Vabbè, quindi capisci che, Oscar, visto sui giornali, dici, la vicinanza a queste persone, metti già due ascoltatori che dicono, quello di Livorno, soprattutto in maniera... Io ci sono stato attento, perché mi dicevano di stare attento, e prendevo meno in tasca di interessi. Quelli invece e sono stati sbeffeggiato, cosa ho detto, sei il coglioncino che ti non capisci nulla dei tuoi soldi. E adesso bisogna ristorare. Esatto. Attenzione che ha una certa ragione. Esatto. Comunque, continuate a chiamarci su questo tema, se volete su altri temi. Noi, tra l'altro, Oscar, dopo parleremo di una vicenda che è stata un po' dimenticata. Oggi il Corriere, prima l'ha fatto il giornale, oggi il Corriere della Sera dedica una pagina a questa vicenda incredibile, a mio modo di vedere. Voi sapete che c'è un preside in questo momento in carcere. Perché era il preside del convitto dell'Aquila. Il direttore del convitto dell'Aquila, quando ci fu il terremoto, che è stato ritenuto colpevole fino a terza sentenza e è in carcere perché non ha dato l'ordine di evacuazione e il convitto era fatiscente, evidentemente non era in grado di reggere un terremoto. È l'unico in carcere, un preside, per terremoto. Anche perché nel frattempo c'è stata, per fortuna da quel punto di vista, invece la sentenza di Cassazione che ha confermato la sentenza di appello di proscioglimento degli scienziati della commissione scienziati. E quindi noi, il direttore del convitto, è l'unico in carcere. L'unico in carcere per terremoto. Noi avremo ospite Enzo Boschi, colui che è stato sotto processo, poi assolto in via definitiva, gli scienziati, uno degli scienziati che erano stati processati per questo, e dialogheremo con lui di una vicenda, se vuoi, surreale invece del preside in carcere. Comunque tra poco, State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Eccoci qui, 800 24 00 24, 8:41 minuti. Caro Oscar Giannino, diciamolo, perché stavamo sorridendo. Perché il programma questa settimana è sponsorizzato da una banca, quindi come vedete. Però apprezzate il fatto che però ci andiamo giù chiari e coerenti anche malgrado gli sponsor. Si può sorridere di tutto. Allora, questa invece è una storia che fa poco sorridere. A me ha fatto indignare quando l'ho letta, non so tu, Oscar, ma terremoto dell'Aquila 6 aprile 2009, lo ricordiamo. Paradossale. Sì. C'è un'unica persona in questo momento, si chiama Livio Bearzi, ha 58 anni, è in carcere, sta scontando una pena a 4 anni, definitiva. Perché? L'accusa è omicidio colposo per aver omesso di valutare l'enorme pericolo incombente. Era il preside del convitto in cui sono morti 3 studenti. Sì. L'accusa è: non ha capito il pericolo incombente, non ha fatto evacuare il convitto. Sì. Era il preside. è in carcere. Io devo dire che l'intera vicenda giudiziaria che ha incastonato, ha incardinato fin dall'inizio una serie di responsabilità di personaggi con condanne che in primo grado furono pesantissime. Poi adesso il paradosso è che rimanga, no, in carcere solo il direttore del convitto. Ma all'inizio c'era di tutto, perché la magistratura era convinta che i responsabili della commissione grande rischio, quindi gli scienziati, i professori, ci fosse un'enorme catena che fosse penalmente responsabile dei morti. Esatto. Come se i sismologi e i geologi siano dotati, veramente confusi dalla giustizia, come coloro che fanno le previsioni dei terremoti. Vuol dire che i magistrati veramente non sanno l'ABC, mi viene da dire, purtroppo, di qual è il mestiere degli scienziati, fino a chi poi alla testa di un convitto, capisci? Come se lui dice: ma no, non uscite, tanto anche se morite. Esatto. Tra l'altro la storia è andata sul giornale. Oggi il Corriere della Sera fa una pagina. Pensa che questo Livio Bearzi è, siccome è friulano, è sopravvissuto per miracolo al terremoto del 76. Dice: ero in un convitto anche lì. Destini, dice in maniera serafica dal carcere, e vive questo dramma di dover scontare. Ovviamente sono partite mobilitazioni per cercare di dire, anche Deborah Serracchiani, insomma, dice: vado in giro e mi dicono come mai Schettino è libero e il professor Livio Bearzi è in carcere, e io non so cosa rispondere. Ha delle responsabilità innegabili su quello che succede alla nave. Esatto, e la Serracchiani dice: io non so cosa rispondere ai cittadini. Che credo che chiunque di noi non saprebbe cosa non dire. Non so, la vicenda che è una vicenda che ha coinvolto anche, alla fine poi è finita la soluzione, Enzo Boschi, che salutiamo. Buongiorno professor Boschi. Buongiorno, buongiorno. Professor Boschi, sappiamo, era nella commissione grandi rischi, e quanto è stata la condanna in primo grado, Boschi, nei suoi 6 anni e mi sembra 10-12 milioni di danni da pagare. E poi alla fine invece è arrivata in appello e in Cassazione la soluzione. Sì, anche in appello. Sì, in appello e poi in Cassazione. Perché il fatto non sussiste. Esatto. Ma qual era il fondamento per cui degli scienziati venivano considerati penalmente responsabili? Perché prevedere i terremoti non si può, ma di che cosa vi imputavano? Ci imputavano di incuria, di cattiva gestione delle informazioni, di non corretta valutazione dei rischi. E questo anche era, insomma, bastava leggere gli atti attentamente, cioè le cose che sono venute fuori, e si vedeva che non era assolutamente così. Abbiamo detto subito che l'Abruzzo è la zona a maggior pericolosità sismica d'Europa, l'Aquila in particolare, e addirittura il sindaco Scelente, che era presente alla riunione, ha testimoniato questo fatto, addirittura chiese lo stato d'emergenza. Può vedere sul Centro, che è il giornale più importante locale, una pagina intera il 2 aprile a questo fatto. E quindi veramente per me e per i miei colleghi è stato abbastanza difficile capire di che cosa eravamo accusati. E tanto è arrivata la condanna, poi fortunatamente l'appello, ma dopo un processo anche doloroso. Ma lei ha un'idea, anche se la vicenda è diversa, ha un'opinione su questo preside che sta scontando? Invece. Io ho un'idea molto precisa su tutta la vicenda. Le vittime in un terremoto ci sono solo ed esclusivamente perché gli edifici sono mal costruiti. Poi ci sarà il preside più attento, il sismologo deficiente, tutto quello che volete, ma le vittime ci sono perché gli edifici sono mal costruiti, nei posti sbagliati, e allora bisognerebbe andare a vedere chi dà queste autorizzazioni, chi sono i costruttori, chi sono i progettisti, chi sono i collaudatori. E se andate a vedere questo si scopre che non si riesce a capire niente, perché sono sempre 30-40 persone. È chiaro, è chiaro. E quindi alla fine il sismologo è la persona più adatta, anche perché poi non è protetto da nessuna... O il preside in questo caso, o il preside in questo caso, che deve scontare una colpa forse di altri. Certo. Io non, la vicenda non la conosco, figuri se voglio intromettermi, e tuttavia non so, è abbastanza difficile immaginare che qualcuno che non sa neanche cosa, come si costruisce una casa, possa essere responsabile di un crollo. Perché le vittime ci sono solo ed esclusivamente perché gli edifici crollano. E in Italia gli edifici crollano perché c'è un'edilizia fatta esclusivamente per guadagnare rapidamente, facilmente, senza rispettare regole, Quindi, sia pur senza forzare il suo pensiero, le condanne degli scienziati e del preside, insomma, di chi della catena che finì a subire le condanne, era un capro espiatorio per non sbattere in carcere e indagare davvero chi aveva costruito con dei materiali inadeguati al luogo. Sì, a me dispiace che giornalisti importanti non si sono occupati di questo processo mentre si occupano di altri processi. Ma sarebbe bene che si andasse a studiare attentamente questo processo, si vedrebbe, non so, che per esempio la responsabilità della protezione civile dipende esclusivamente dalla regione, per esempio, dall'assessorato alla protezione civile. E allora bisognerebbe andare a vedere il comportamento di questi personaggi che hanno l'obbligo del controlli, della manutenzione, della verifica continua. Ecco, queste cose non vengono mai fuori. Ecco, professore, lei da questa vicenda come è uscito? Ha fatto l'intervista, ricordiamo, professor Boschi, ricordiamo tutti, era il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, colui che chiamavamo tutti, no? Quando certo. C'era anche una minima scossa. E tra l'altro bisognerà fargli una domanda anche sull'eruzione che è in corso sull'Etna, prima che finisca l'intervista. Esatto, no. Intanto come lei ne è uscito da questa vicenda? Massacrato, perché ormai non... Sì, non... Ho problema del tempo libero, mi sto perdendo con i social, con Twitter, con Facebook. Cioè passa il tempo lì su Twitter, Facebook, no beh immagino. Nel senso che una condanna e anni così incidono, impattano sulla carriera professionale, sul prestigio internazionale, insomma è così, tutte cose che sono irreparabili. No, sul prestigio internazionale ci tengo a dirlo, no. Ho avuto varie offerte di lavoro in alcuni paesi anche importanti. Però insomma ormai io non sono giovanissimo, preferisco restare in Italia. E sull'Etna allora come va? Sull'Etna c'è una bellissima, tra virgolette, eruzione, molto energetica, una delle più energetiche degli ultimi anni, credo. E sembra che i problemi non ci siano, nel senso che la nube non sta andando verso l'aeroporto, quindi i voli possono andare tranquillamente perché le nubi, queste polveri vulcaniche sono metalliche, sono fatte particelle metalliche, se vanno a finire nei motori dei jet li bloccano. Mm-hmm. Quindi è un'eruzione molto violenta, molto spettacolare, ma non ci sono al momento pericoli per le persone o per i paesi, perché tutto va a finire nella valle del Bove, che è sostanzialmente disabitata. Sì. Allora, devo dire, in conclusione, vedi che Oscar e anche il professor Bosca aveva un messaggio a dire: meno male una volta che qualcuno paga, si riferisce evidentemente al preside che è in carcere. No, c'è questa idea che qualcuno deve pagare, è giusto che qualcuno debba pagare. Ma è che viene assecondata da chi cerca i capri espiatori. Esatto, cioè che qualcuno paghi, o meglio, che paghi se deve pagare quello che deve pagare, non che paghi però, il primo che passa. Mentre invece no? Magari chi truffa sui materiali edilizi e chi non controlla come vengono edificate le case, quelli mai. Insomma, comunque questo preside è in carcere, lo ricordiamo. Professor Boschi, noi la ringraziamo per essere stato grazie, con noi, ovviamente. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. E ricordiamolo, questo preside Livio Bearzi, ci sono, ripeto, leggete oggi sul Corriere la sua storia, ci sono mobilitazioni. Ma c'è l'idea che quello volesse, cioè capisci che quella gente che è morta lì e lui è responsabile. Sì, e infatti lui dice, in realtà io sto vivendo, tra l'altro in maniera molto dignitosa, poche parole fa uscire dal carcere, sto vivendo in maniera drammatica il mio secondo dramma, il mio primo dramma sono quei tre poveri studenti che sono morti e che erano responsabilità mia, nel senso che ero il preside e li considero come ragazzi miei e porterò sempre il dolore della loro morte dentro di me, e adesso deve pagare anche doppiamente. Comunque caro Oscar, ci sono ascoltatori ancora. Mario da Torino ci chiama. Mario, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Che ci vuole dire? Io due cose. Prima una domanda che alla quale non riesco a darmi risposta, ed è questa. Beccano uno che vuole andare in Turchia per andare a fare il foreign fighter con inni all'ISIS e lo arrestano, lo interrogano e poi lo espellono. Altro si batte a lungare e lo espellono. Quello dove va? Va dove voleva andare. Vabbè. Mi sembra una cosa un po'. E poi ci ha fatto la risposta in realtà, cioè, vede che ce l'ha la risposta. No, non ce l'ho la risposta, perché cosa... Vai, sì, però mi sembra un'incongruenza, un modo di... Cioè, come se il problema fosse risolto, tanto quelli poi tornano da dove vengono avendo accumulato esperienza. Sono d'accordo con lei, però a seconda cosa? Seconda cosa? E poi un'altra cosa, vorrei dare un suggerimento a Renzi, oltre a dare i 500 euro ai 18enni, suggerirei di comprare il motorino ai 14enni. Così sosteniamo l'industria delle due ruote italiane. Ma bravo, bravo Mario. Bravo, l'ironia Mario. Di Mario da Torino, va bene, grazie. Andiamo a Rimini da Giancarlo. Però fullata come sempre. Giancarlo, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, le volevo dire che riguardo ai risparmiatori delle obbligazioni, sì. No? Parlavate prima. Sì. Io sono un piccolo imprenditore all'ingrosso, senza dipendenti, da solo. Io ogni due anni, un anno e mezzo, due anni, c'è un cliente che mi salta. Quindi perdo 12.000 euro, 14.000 euro. Mm-hmm. Vado dall'avvocato, mi dice che cos'ha? Niente. Allora dice risparmia i miei soldi perché non si prende niente. Ok, allora il risparmiatore, se fa un affare con la banca, che è un'azienda, una partita IVA la banca, perché? Perché non li vuole perdere? Ha fatto un affare sbagliato come lo faccio io e tanti altri. Lei dice, è il rischio. Perché esatto. Quelle banche hanno visto le classi dirigenti, non solo quelle politiche, non solo quelle politiche, il papà della Boschi, comunque tanta politica locale in quelle regioni e anche i vertici delle associazioni di impresa, eccetera, eccetera, per anni alla testa di queste banche dicendo non si rischia nulla. Ed ecco che la politica si sente punta nel vivo, ecco perché il problema di Giancarlo è un problema fondato, dice ma come? A quelli niente. E a questi invece si mobilita tutto. Sì. Tra l'altro così. Ci fa notare un ascoltatore, però i 14enni, quelli del motorino, non votano. Pieretto si firma così, però non votano. Manca un minuto, caro Oscar. So che volevi citare una persona che prima io la stampa mi è sfuggita, semplicemente ricordare a tutti che questa nuova capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana vale la pena di una riflessioncina. L'avvocato Alice Anselmo, sette che ha fatto? Partiti in meno di tre anni prima di diventare capogruppo del PD. Oggi la stampa, la intervista dice è passata in sette gruppi, se vogliamo, sette partiti diversi nell'Assemblea regionale siciliana. E ora è trionfale capogruppo renziano del PD dicendo io non cambio mai idea, sono gli altri che si spostano. Ma infatti dice finalmente mi chiama un giornalista così posso spiegare perché ho passato sette partiti in tre anni. Una volta erano i gatti che avevano sette vite. Invece adesso scopriamo che i topastri in politica ne hanno almeno altrettante. Vabbè, caro Oscar, io domani mi fermo, sto un po' a casa perché sono stanco. Ma tu domani sei io domani qui. ci sono e quindi tenterò, però non ci riuscirò di non farti rimpiangere. Però ti aspettiamo, solo un giorno. Un giorno. Ciao a tutti. Continuate con Radio 24.